Dunque, la notizia della cattura, la notizia della cattura dei quattro italiani era assolutamente vera, avvenuta in Iraq nei giorni scorsi e non oggi, come viene accreditato da alcune fonti di informazione. Il reporter iracheno della Reuters, testimone oculare di quel sequestro, aveva visto tutto, aveva visto bene, aveva perfettamente ragione. Nonostante i media italiani, spesso miopi, chissà poi perché, e addirittura hanno ridicolizzato questa notizia della cattura degli italiani, come è capitato proprio nei giorni di Pasqua sui TG delle reti di proprietà del Presidente del Consiglio. Bene, i quattro italiani che su un fuoristrada pieno zeppo di armi sono stati fermati e sequestrati da un gruppo della guerriglia e della resistenza irachena, non mentiamoci, erano e sono dei mercenari. La DTS, la compagnia alla quale si fa riferimento nel volantino di rivendicazione del sequestro, è una delle compagnie mercenarie fortemente impegnate in Iraq. Pensiamo che sono 60.000 gli americani che sono stati, come dire, noleggiati, se si può usare questo termine, con veri e propri contratti di leasing dal Dipartimento di Stato, dalle più importanti compagnie di corporate warrior o di contractors, ancora una volta mercenari, per combattere questa guerra e per supportarli nell'invasione e nell'occupazione di quel paese. Il problema semmai è politico ed è molto molto grave quello che è avvenuto e che riguarda proprio gli italiani. Ora non vogliamo fare della dietrologia. C'è la notizia del sequestro degli italiani, immediatamente la notizia della famosa lunga telefonata tra Bush e Berlusconi e l'immediato viaggio di Berlusconi, inusitatamente lungo e del tutto inaspettato proprio in Siria, proprio in Iraq e proprio nel momento in cui nessuno se lo aspettava, perché davvero pericolosi quei giorni. Cosa sia accaduto non lo sappiamo, sappiamo solamente che il ministro della difesa italiano Martino proprio nelle settimane scorse stava tentando di creare una milizia parallela, ovvero sia cercando di acquisire per la sicurezza delle basi italiane dei militari niente di meno che albanesi, quasi fossero dei Gurkha, quasi fossero di una sorta di legione straniera. Ora abbiamo la certezza che siamo andati molto più avanti, delle compagnie mercenarie sono presenti in Iraq e hanno anche uomini italiani. Le più famose compagnie mercenarie che sono presenti in Iraq sono la MPC, naturalmente la Dyn Corp e la Vinyl Corp, tutte military private companies, sono dei soggetti con decine di miliardi di dollari di fatturato che girano il mondo, questi uomini, per supportare le forze armate americane nei compiti più sporchi, una sorta di legione straniera, questa sì, davvero globale. Bene, ci domandavamo tempo fa, ma il Parlamento italiano era stato informato di queste milizie parallele albanesi cercati dal ministro Martino e ci eravamo posti una domanda retorica, ma i mercenari saranno forse anche degli italiani? Ci saranno dei contratti di leasing con delle compagnie americane o inglesi o sudafricane o israeliane? Questa è la nazionalità di queste compagnie. Bene, ora lo sappiamo bene e sappiamo anche molto bene una notizia ancora più grave, forse, che proprio in questi minuti circola sulle agenzie. Nel documento di rivendicazione del sequestro, i sequestratori, all'ultimo punto delle loro richieste, ovviamente la prima è quello che gli italiani lascino immediatamente il territorio iracheno, c'è quella della liberazione di prigionieri iracheni detenuti dagli italiani. Questa è una notizia che dovrebbe far sobbalzare su una sedia, perché sino a prova contraria i prigionieri si fanno in guerra. Se ancora qualcuno avesse dei dubbi sulla nostra missione militare umanitaria in Iraq. E l'ultimissima notizia è che la DTS proprio in questi minuti ha disconosciuto quei quattro italiani come propri dipendenti, ma questo, attenzione, è un tranello, è un gioco che si fa sempre più duro nel momento in cui sono impiegati mercenari o milizie private. Pensate, i mercenari nel momento in cui firmano i loro contratti di affiliazione e quando queste compagnie firmano i contratti di leasing con le varie forze armate, c'è un meccanismo di disconoscimento automatico a catena per evitare che qualcuno rimanga bruciato. E questa volta, con le mani sul fuoco, sono rimasti i quattro italiani, i quattro mercenari, l'anello più debole di questa catena. Roberto Di Nunzio, reporter associati per Amisnet Radio.